Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Prendete un grande respiro, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché anche questa settimana c'è una congestione di notizie, ce l'ho tutte effettivamente nella testa, ogni tanto mi si rimprovera, dici troppe cose, troppo velocemente, c'è troppa roba dentro la tua trasmissione, però come si fa? Faccio una trasmissione tutta sulle notizie della settimana, fresche della settimana, e ti viene un po' la tentazione di trattarle tutte, però come sempre ce n'è qualcuna, insomma, un po' più da prima pagina, oppure un po' più intrigante, o anche a volte più drammatica, insomma, di quelle che colpiscono maggiormente. E il numero per voi per intervenire durante tutta l'ora, sino alle 15 più o meno, sino a quando siamo insieme, è sempre 800 24 00 24. Ve lo dico dall'inizio, numero verde anche ecologico, così evitate di disperdere le vostre energie verso altri territori, invece ecologicamente le concentrate qua. Non ci sono più le mezze stagioni. 800 24 00 24. Quali sono i principali fatti di questa settimana? Poi naturalmente ognuno decide rispetto al proprio punto di vista, però naturalmente si continua a parlare di crisi. C'è in vista il G20, allora c'è tutto questo frenetico scambio tra capi di Stato, capi di governo che si incontrano, si telefonano, teleconferenze e di tutto, e sembrano piuttosto d'accordo, insomma, che le priorità sono la crescita e l'occupazione, con gli Stati Uniti che premono e dicono fate qualcosa di più. Tra l'altro sapete che la Grecia voterà in questo fine settimana per scegliere, insomma, per le elezioni amministrative, in base alla composizione del governo che verrà fuori si deciderà se la Grecia starà ancora nell'euro o tornerà alla dracma e quali potrebbero essere le eventuali conseguenze. Di questo ci occuperemo però dopo. Poi Monti, che da una parte proprio ieri aveva detto in un incontro a Milano organizzato dalla Fondazione Italia-Cina, aveva detto la Cina si rassicuri, l'euro ce la farà e anche l'Italia ce la farà, dobbiamo battere soprattutto la corruzione, e su questo siamo d'accordo. Infatti abbiamo visto che iter difficoltoso a questo disegno di legge anticorruzione vedrà la luce prima o poi nella sua completezza oppure no. Com'è possibile in un paese come questo che non si riesce ad avere una legge congrua, insomma, contro la corruzione? E poi oggi invece stavo leggendo sulle prime pagine online di Corriere di Repubblica Monti che dice l'Italia è di nuovo in crisi, il cratere della crisi si è allargato. Quindi da una parte voci rassicuranti il giorno prima, dall'altra questo cratere che si allarga, insomma un po' di angoscia, e c'è angoscia in particolare per alcuni. Gli esodati continua a essere un po' in primo piano questo problema, con anche le diatribe tra la ministra del lavoro Fornero che continua a dire che sono più o meno una cifra e che si riuscirà a aiutare tutti, e i sindacati che dicono questo è un problema gravissimo, come si farà, e l'INPS anche che ha dato delle cifre completamente diverse. Poi dicevamo questo iter difficoltoso del disegno di legge anticorruzione, c'è stato il via libera dalla Camera, però il PDL dice guardate che vogliamo anche la responsabilità civile dei magistrati, quindi rischiamo di far cadere il governo, la legge, eccetera eccetera, si vedrà. I sondaggi che dicono a proposito di politica che Grillo potrebbe essere quasi il primo partito, che ne pensate di questa cosa? Vi rassicura, siete con Grillo, che riflessioni vi fa fare questo risultato? Poi ritorna le inchieste sulla trattativa Stato-mafia, è indagato adesso anche l'ex ministro della giustizia Conso, prima Mancino, insomma vengono fuori delle cose un po' strane, un po' particolari. E all'estero l'Egitto, è stato sciolto il Parlamento, si tornerà alle votazioni. La Siria che è un bagno di sangue costante, centinaia di migliaia di morti, ho letto di torture inenarrabili, e la comunità internazionale sta a guardare perché Russia e Cina non ne vogliono sapere, insomma, per i loro interessi strategici, economici, militari, eccetera. E poi cos'altro dire? Ah, tutta questa naturalmente cassanata, questa polemica su presenze di giocatori gay nella nazionale, lui che se n'è uscito, diciamo, un po' cavernicolo, ecco, che gli si attaglia abbastanza. E poi Bersani che pochi giorni prima aveva mandato una lettera ai Gay Pride a Bologna, quello ufficiale nazionale, dicendo, e quindi anticipando in qualche modo anche un po' il programma di partito su alcuni temi, dicendo è una vergogna che in Italia non si abbia ancora una legge sulle unioni civili anche per le persone dello stesso sesso, aveva detto anche sul testamento biologico e sul divorzio breve e varie altre. Poi se vi interessa, Celentano dopo 18 anni torna a cantare dal vivo, lo farà l'8 e 9 ottobre all'Arena di Verona, e insomma di notizie mi pare di averne raccontate parecchio, però come sempre il nostro rito che cos'è che ci conferma anche questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni? non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. È una notizia che mi fa abbastanza incavolare questa, voglio dire, non so se vi ricordate, qualche puntata fa con Veronica Pivetti ci eravamo detti, cioè io le avevo detto, lei era felicissima perché grande divoratrice di questo tipo di cibo, che una ricerca americana della California, anzi vi dico precisamente della Pennsylvania, l'università di Scranton in Pennsylvania, presentata poi un po' di giorni fa al meeting dell'American Chemical Society a San Diego in California, quindi una roba importante con tutti i crismi, questa ricerca diceva che i popcorn sono i migliori snack, addirittura superano la frutta, sono pieni di polifenoli, di antiossidanti naturali, insomma facevano tutta un'elegia di questi popcorn, no? Che sapete tanti sono appassionati, soprattutto al cinema, soprattutto gli americani, e Veronica Pivetti era felicissima, dice io mangio un sacco di popcorn, bevo schifezze, mangio schifezze, so che almeno una di queste schifezze mi fa anche bene, insomma avevamo concluso con una certa gioia su questo. Ieri un'altra ricerca esce, americana, che dice che in realtà i popcorn fanno molto male, sono pieni di grassi e di calorie, e il sindaco Bloomberg di New York, che già ha vietato il fumo, che già sta facendo una lotta alle bibite zuccherate, vuole tassare adesso anche i popcorn che gli americani consumano a quintali nei cinema, nei teatri, a casa, sul divano, davanti alla televisione. Insomma, io voglio sapere, le cose stanno in un modo o stanno in un altro? Ci sono le mezze stagioni o non ci sono? Vogliamo la verità su questi popcorn? Non lo dico in modo interessato, perché a me i popcorn proprio non mi piacciono, non sono mai nei miei pensieri, proprio non mi vengono mai in mente popcorn, però giustamente a chi piaccia, insomma, avrà il diritto di sapere, fanno bene, fanno male. E con questo per il momento concludo questa prima parte e vi vado a presentare, signori e signore, l'opinionista estemporaneo di oggi. Giorgio Mulet. Buonasera, bentrovati, ciao Roberta. Sei proprio siculo tu, buonasera. Qua c'è un sole splendente a Milano per una volta, cioè proprio so che finalmente sono tornate le stagioni, estate. Buonasera. Ma sei in Sicilia, la tua patria, no, guarda, o a Roma? No, sono a rendere omaggio alle Cinque Terre, quindi sono in Liguria. Bellissime, un bellissime popolo straordinario che ha saputo da ottobre del 2011 rinascere. A oggi a cancellare, esatto, lo sfregio dell'alluvione, quindi bisogna dare atto a questa popolazione che da sola, devo dire, si è rimboccata le maniche con grande, grande, grande forza, talento, e hanno rimesso tutto a posto, e quindi quest'anno le vacanze si passano alle Cinque Terre. Quindi tu hai iniziato già le tue vacanze? No, ma magari, mezza giornata oggi, domani già a Milano a lavorare, quindi, ma però insomma da Milano sono due ore, quindi si può e si deve fare, perché bisogna, è come per il terremoto, cioè se bisogna fare della solidarietà, bisogna dare atto, bisogna stare vicino a chi è stato male, chi ci ha messo, devo dire, al di là della faccia proprio tutto se stesso, e quindi bisogna stare vicino a loro, e la cosa migliore è portare, dare testimonianza attiva del fatto di esserci, di essere anche vicino economicamente, quindi. Esatto. Giorgio, quindi tu adesso sei in costumino? Lì, sì. Cinque Terre, ce la stai confermo godendo praticamente. Ci sono sempre i gatti che girano da quelle parti, pieno di gatti, forse perché ci sono tutte le barchette coi pesci. In realtà ho affitto una casa che guarda un golfo straordinario, meraviglioso, una di quelle cose che tolgono il respiro. Non ho gatti, non ho cani, ho soltanto una vista mozzafiato sul mare che, devo dire, ripaga di tutte le fatiche, di tutti i pensieri, di tutte le angosce che in questo momento abbiamo. E quindi sei particolarmente ispirato, caro Giorgio, sì. Tu sei ispirato, e in questo tuo afflato che riguarda la Liguria ma non solo, quindi diciamo la nostra bella Italia, tu vuoi dire, no? Poi, assolutamente così, tutto, sì. Ovunque ci sia bisogno, ovunque ci sia anche motivo di essere orgogliosi, e allora io ti invito Giorgio, concentrati, a cantare su una base strumentale che adesso ti metto, improvvisati, perché so anche che tu hai una bella voce, oh, e potresti, aspetta piano piano, tu preparati e riconosci subito la nota con l'orecchio veloce, sentiamo. L'Italia, l'Italia, sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove sta? Vabbè, meraviglioso. La gloria che schiava di Roma, di Dio la creò. Bravissimo, Giorgio. Bravo. Vedi a volte come i paesaggi, no? Come la pienezza degli occhi, del cuore, poi ti fanno un leggero ritardo, diciamo, sulle battute. Però, no, però mi apprezzato. Mi arrivava in ritardo la base. No, avendo fatto pure 8 anni di conservatorio, ti prego. Ti prego. Quindi no, mi arrivava in ritardo, infatti me ne sono accorto, però non potevo fermarmi. No, sei bravissimo, Giorgio, sei bravissimo. Senti, e cosa hai imparato al conservatorio? Anche strumenti, immagino, non solo cantare. Ho diplomato in flauto traverso, sì. Però... Quindi ogni tanto con Uto Ughi ti fai qualche... No, mai più, perché in realtà, siccome poi come uno scemo mi sono messo a fumare, ho anche smesso nel frattempo. Bravo, complimenti. Quindi il lavoro, il fumo, eccetera, non mi davano più tempo. Allora in pratica le note che tu pensavi, quello che tu pensavi di poter fare, non corrispondevano poi alla tecnica manuale. Allora tu pensi una cosa e non la riesci a fare, allora a quel punto l'ho mollato, non ho più suonato. Quindi ho mollato. Senti, io ti voglio... Stupidamente, è vero, perché quando si inizia, ecco, con la musica non bisognerebbe mai abbandonarla, però insomma poi la vita è fatta di tante cose, di imprevisti, di altri interessi, di svolte, di di rotonde, eccetera, eccetera. Volevo chiederti una cosa, un mistero, caro Giorgio, poi mi dici qual è la tua notizia della settimana. Io ho visto, sai che Eni ha lanciato una campagna in questi giorni abbassando i costi della benzina, dicendo che nel fine settimana insomma sarà molto bassa. E subito gli altri operatori si sono incavolati, lamentati, dicendo questo è un attacco alla concorrenza. Poi è venuto fuori anche Kuwait ieri a dire no, ma allora abbassiamo anche noi, e l'asso petrolieri ha chiesto subito al garante della concorrenza di intervenire, perché dice che così si ostacola la concorrenza. Io dico una volta che effettivamente è concreta la concorrenza tra le pompe di benzina, tra i maggiori produttori di benzina, dicono che bisogna salvaguardare la concorrenza. Scusa, io non ho capito se il mondo è ribaltato o non ho capito io. No, guarda, tu dici una cosa esatta, una cosa assolutamente in linea con l'intelligenza. Il problema è che in questo caso l'intelligenza è difetta, cioè è la prima volta la in cui la mia abbiamo... o degli assopetrolieri? No, degli assopetrolieri, la tua ci mancherebbe. No, nel senso che per la prima volta abbiamo la prova concreta che la concorrenza esiste, cioè quello che è stato accusato da tempo, ha ragione secondo me, di essere un cartello, cioè l'accordo tra i vari produttori di petrolio e quindi di benzina, per la prima volta viene scalfito da un di fatto monopolista che è l'Eni attraverso l'Agip, eccetera. Sì, okay. Questo va bene. È come se noi dovessimo mettere sotto accusa chi nei supermercati fa il 3x2 o chi fa delle offerte particolari, quindi le altre catene alimentari dovrebbero lamentarsi del fatto che ci sono offerte particolari. Non viene in testa a nessuno, anzi al contrario, viene detto il contrario, cioè che finalmente chi fa il 3x2 vuole di fatto incita a consumare, e quindi va bene anche per l'economia. Quindi è totalmente incomprensibile la presa di posizione. Appunto. Quindi fossi in Kuwait, fossi negli altri, farei degli sconti ancora più forti rispetto a quello che sta facendo l'Eni, per dimostrare due cose: da una parte che i petrolieri, che vengono accusati secondo me anche a ragione di lucrare a volte un po' troppo sul prezzo del petrolio e quindi sulla benzina, sono persone dotate di buonsenso e che hanno anche a cuore il bene del paese, dall'altro per dimostrare che non c'è un accordo di cartello e che esiste una concorrenza reale in Italia anche su questo fronte, nonostante molti facciano fatica, giustamente secondo me, a vederlo. Oh, finalmente, no, pensavo di averlo detto, no, sarò io che magari non ho capito certi meccanismi, invece effettivamente, cioè, se vogliono fare concorrenza, speriamo che tutti comincino proprio così a domino ad abbassare i prezzi, così anche perché hanno visto che effettivamente la gente comincia a consumare molto meno i carburanti, andare più con i mezzi, no, con i mezzi pubblici. Ma beh, guarda, io devo dire, sono rimasto molto impressionato facendo la spesa. Io sabato vado a fare la spesa la mattina, volutamente perché mi piace, ma sono rimasto molto impressionato dal fatto che al supermercato le persone, la gente comincia a prendere le monoporzioni piuttosto che le porzioni di 5 o di 6 pezzi, sia vale per le lampadine come per la verdura. La gente comincia a pensare, a dire, ma guarda, magari facciamo a meno delle ciliegie perché costano 5 euro e sono troppe, quindi prendiamone soltanto 300 grammi. Fa molta impressione, perché non lo dicono persone che hanno problemi di stipendio per arrivare alla quarta settimana, lo dicono persone che hanno anche degli stipendi che sono ragguardevoli. Questo ti dà l'idea di come oramai questo panico, di come oramai la paura, il terrore che qualcosa finisca dall'oggi al domani, sia oramai abbia contagiato davvero tutti, fa molta impressione. Giorgio Mulè, direttore di Panorama, naturalmente più volte è stato qui ospite. La copertina vedo Monti che è un po' in stile, appunto, Luigi XIV, il Re Sole, ma il titolo è Il Re Solo. Poi mi dirai perché, adesso abbiamo una pausa per aggiornare chi sta viaggiando, poi mi dirai anche se che riflessioni ti fa fare il fatto che secondo un sondaggio di questi giorni dell'SVG per la 7, mi sembra, o no, per Rai 3, per Rai 3, abbia sancito che Grillo è lì sotto sotto che spinge il PD, nel senso che è a un passo dal PD, il PDL è sceso ancora un po', potrebbe diventare il primo partito. Quali saranno le tue riflessioni? Ma ce lo dirai dopo, 800 24 00 24, poi abbiamo Vitalba da Roma. Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre insieme Roberta Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi, qui a Non ci sono più le mezze stagioni, e il direttore del settimanale Panorama, Giorgio Mulè. Il numero verde per le vostre opinioni sui fatti della settimana è 800 24 00 24. Per esempio, anche voi cosa ne pensate del fatto che secondo questo sondaggio SVG Beppe Grillo e il suo grillismo e il suo movimento, diciamo, perché lui non vuole chiamare partito e non vuole creare il partito, il Movimento 5 Stelle sta praticamente quasi surclassando anche il PD, comunque è al secondo posto. Adesso vado a riprendere le percentuali perché non me le ricordo a memoria. Ecco, è al 21% nel paese, dietro al PD appunto che è al 24%, e dice anche che Monti è un po' in calo per quanto riguarda il consenso nei suoi confronti, e cresce il partito del non voto che passa questa settimana dal 42,2 al 45,8%, quelli che dicono ah, basta, io non vado a votare, mi sono scocciata. Prima di sentire Giorgio Mulè appunto su Grillo, Vitalba da Roma. Buongiorno. Buongiorno Vitalba. Allora, io volevo intervenire sulla questione Cassano, sì, ma non nel merito della questione. Mi faccio una domanda. Allora, il giornalista che durante la conferenza stampa fa la domanda che ha fatto a Cassano, mi chiedo se voleva effettivamente fare una domanda di tipo giornalistico, cioè quale fosse, se in realtà fosse quello il contesto giusto per farlo. Perché insomma, non mi sembra che ci sia la notizia, quindi non capisco la domanda. Diversamente, se il giornalista voleva semplicemente, come dicono a Roma, no, buttarla in caciara, allora perché c'è stata l'indignazione a fronte delle parole di Cassano? Vitalba, allora senti, se vuoi ti rispondo, ci confrontiamo. Insomma, io penso che un giornalista, ecco, l'unica domanda che io non tollero è quando è successa una disgrazia, quando è morto il figlio o qualcuno, hanno ucciso la moglie, il marito, dice cosa sente, ecco, oppure lo perdona. Ecco, sono domande che io non tollero, non sopporto. Però mi sembra che questa cosa invece lì ci stesse, nel senso, era venuta fuori una polemica sia in ambito del calcio, e non si parlava di grande economia, di grande finanza, per cui ci stava anche come argomento. E poi una giornalista fa una domanda appunto su un tema che in quel momento è particolarmente dibattuto, di qualsiasi carattere sia, quindi io non rimprovererei il giornalista di aver fatto questa domanda a Cassano. No, ma io sono d'accordo, però allora non ci indigniamo, nel senso che accettiamo che si trattasse di una domanda leggera e che alla quale è stata data una risposta altrettanto leggera, quindi non crocifiggiamo il povero Cassano che a fronte di una domanda di tipo leggero ha risposto in maniera tra virgolette leggera. Insomma, poi taccio su tutto il resto. Ma ti sembra una risposta però leggera a te, Vitalba? No, voglio dire, è una risposta che io mi sarei assolutamente aspettata da Cassano, cioè da Cassano non mi aspetto risposte di spessore, quindi assolutamente in linea con la persona a cui è stata rivolta la domanda. Quindi tu dici è quello che si poteva avere da Cassano, sì, quindi perché tanto... Ma penso che la domanda sia stata fatta apposta a Cassano e non... adesso devo essere sincera, non mi viene un calciatore che avrebbe potuto dare una risposta di spessore, ma diciamo mi viene in mente magari Del Piero, ma non lo so adesso, ecco, forse comunque ti ringrazio. C'è Giorgio, mi sa che vuole intervenire. Grazie Vitalba. Giorgio Mulè, grazie a voi. No, giusto per dare due coordinate anche a Vitalba. Allora, la domanda a Cassano viene fatta perché in realtà su Radio 24 alla Zanzara Cecchi Paone lancia il sasso nello stagno sui gay nella nazionale. Dopodiché Cassano non viene scelto quel giorno per rispondere, perché la Nazionale, la Federcalcio ogni giorno in conferenza stampa fa a parlare un giocatore. Quel giorno giusto giusto toccava a Cassano. Allora la convergenza tra la cosa che aveva detto Cecchi Paone alla Zanzara e l'indomani mattina la presenza di Cassano in nazionale ha combinato la maionese impazzita che è poi uscita sui gay eccetera eccetera. Questo giusto per capire come funzionano spesso i meccanismi dell'informazione e dei cortocircuiti che poi ci troviamo a commentare. 800 24 00 24. Ma mi avverte Pietro La Corte che abbiamo, come sapete, l'unica trasmissione al mondo questa, un collegamento anche con un altro pianeta, è vero, per avere un punto di vista. Sì. Riflessioni da Marte. Ormai col telescopio perennemente puntato sul suolo italico è evidente anche da quassù, da Marte, i misteri d'Italia non sono Ustica, Piazza Fontana, il rapimento Moro, no. Il vero mistero d'Italia è il numero degli esodati, ovvero la cifra dei poveri raminghi, delle anime del purgatorio incentivate a uscire dal lavoro ma senza possibilità d'ingresso per chissà quanto nell'agognata pensione. Anzi, per loro nemmanco la mezza pensione. Dunque, dicevo, questo è il vero arcano nazionale. Quanti sono gli esodati? Sono 65.000, come sostiene la ministra, o quasi 400.000, come dice invece l'INPS. Sarà forse necessario rivolgersi a chi l'ha visti, o ancora meglio a chi li ha contati? Il mistero si fa fitto e pare non sia stato questa volta neanche il maggiordomo. Un altro enigma, per la verità, aleggia sull'Italia, specie quella nel pallone. Cassano Antonio ha attraversato tutto il periodo del paleolitico e tutto il periodo del mesolitico e tutto quello del neolitico senza nemmeno una ruga, con l'aiuto di una clava e di un orangotango, o dice quel che pensa, o pensa quel che dice, o dice ma non pensa? Se penso quello che dico, sai che cosa viene fuori? Sono froci, se la vedessero loro. Mi auguro che non ci sono veramente in nazionale. Nel frattempo c'è chi pensa e fa quel che vuole, con grande spirito di sacrificio, sia chiaro. Vi ricordate, giusto qualche settimana fa, il referendum popolare in Sardegna che abbassava le paghe dei consiglieri regionali? Ebbene, gli stessi consiglieri, nottetempo, quindi poveracci, non hanno nemmeno dormito, con un blitz appunto durante la notte, i consiglieri hanno salvato eroicamente le loro buste paga da oltre 10.000 euro al mese, di modo che la Sardegna, dopo giorni di terrore per i politici regionali che temevano di finire sotto i ponti, è tornata a essere la regione con il costo della politica più alto. E sapete come ci sono riusciti, a parte le tenebre? Con un emendamento a una legge sui precari. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Torniamo con i piedi per terra all'800 24 00 24. Giuseppe d'Alessandria. Buona giornata. Buona giornata a te, Giuseppe. No. Niente, io volevo dare una risposta, che può essere la mia risposta personale, a quello, certo, che può essere il grillismo e l'astensionismo. È una parte, forse è l'astensione, una parte l'abbiamo sentita anche nelle cronache dalla Luna, giusto? Da Marte, sì. Da Marte, come... pardon. Siamo da Marte. È un altro pianeta. Parlando dei costi della politica, cioè, nei giorni scorsi abbiamo visto che per far passare un decreto sulla corruzione ci sono volute 3 fiducie e una serie di veti incrociati da parte di principali schermi. Ma non è ancora finita, però, E non è, ecco, appunto, e non è ancora finita. Come diceva giustamente, come ho sentito l'intervista proprio a Radio 24 stamattina del Presidente del Consiglio, molti paesi stranieri sono spaventati dal venire a investire in Italia proprio per un problema di corruzione. E qual è la nostra risposta? Il fatto di osteggiare il più possibile un decreto anticorruzione. Allora, a questo punto la gente o non va a votare, o se uno dice per andare a votare questa gente qua, ma buttiamole in cacciara, come diceva lì, e mettiamo chissà che cosa può succedere. Tanto Grillo comunque non penso che riuscirà mai a ottenere la maggioranza e andare al governo, perché comunque io speravo che comunque i partiti capissero il messaggio, cioè alla fine qui la gente si sta scocciando, perché non è possibile, cioè la soluzione di tutti i mali sembra che sia il presidenzialismo, cioè con tutti i problemi che abbiamo la soluzione è la soluzione epocale, qual è la riforma epocale? È il presidenzialismo. Ma chi se ne frega del presidenzialismo? Cioè qui abbiamo le aziende, cioè abbiamo gli imprenditori che non riuscendo ad affrontare la crisi si tolgono la vita, la risposta che il principale partito italiano dà qual è? Il presidenzialismo. Adesso il terzo partito in realtà. Giuseppe, ti ringrazio. Allora tu stai praticamente dicendo che votare Grillo è un po' buttarla in cacciara, cioè un voto di protesta, insomma, senza molta convinzione. Chiaro. Sentiamo... Comunque era il primo partito all'ultima elezione, poi adesso i sondaggi sono sempre sondaggi. Sentiamo, grazie Giuseppe, che ne pensa Giorgio Mule di questa analisi di Giuseppe? Può essere il presidenzialismo la risposta? Perché effettivamente il PDL con Alfano due o tre settimane fa, ma forse anche un pochino di più, aveva detto stiamo per partorire la più grande novità politica di tutti i tempi. Dov'è? Non ho capito. L'incapacità di dare risposta a quello che dice Giuseppe, a quello che dicono milioni di italiani, ha determinato la caduta e l'arretramento della politica o dei partiti della politica come eravamo abituati a vederli, PD, PDL, gli altri partiti. Cioè l'incapacità di connettersi con la società, l'incapacità di capire che in questo momento c'è una necessità forte, impellente, reale di discontinuità. La discontinuità impone innanzitutto un azzeramento del nostro modo di pensare nei termini in cui pensavamo prima del 2012 e impone soprattutto degli atti concreti che segnalino davvero la discontinuità, e sono d'accordo che non può essere il semipresidenzialismo, cioè il semipresidenzialismo è una parte del discorso. Quando poi ieri il governo annuncia una manovra comunque un decreto sviluppo di 80 miliardi. In realtà è una fesseria, se mi consenti di, come dire, esplicitarlo in maniera perché gli 80 miliardi sono scritti sull'acqua, cioè non è che il governo ha racimolato o ha tagliato 80 miliardi da una spesa pubblica che è fatta di quasi 800 miliardi per destinarli alla crescita. No, è bene che l'Italia sappia che quegli 80 miliardi altro non sono che la speranza di investimenti privati che verranno fatti di qui a nei prossimi anni, cioè non sono 80 miliardi di risorse che lo Stato ha messo in piedi facendo finalmente un percorso virtuoso al suo interno, assolutamente no, lo Stato di quegli 80 miliardi a occhio e croce forse ne tira fuori due o tre, ma neanche due o tre. Senti, quindi sei d'accordo Giorgio Mule con Alfano, prima notizia del Corriere Online oggi, che dice sul decreto sviluppo, vabbè, critiche dal PDL, e Alfano dice 80 miliardi, uno solo è reale. Il segretario Alfano attacca il decreto sviluppo varato ieri: se avessimo fatto un decreto con un solo miliardo vero i giornali avrebbero detto di tutto di più su di noi, quindi questa è la sua posizione. Ma adesso io ti chiedo però Giorgio, e poi dopo leggiamo anche qualche commento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, questa benedetta legge anticorruzione, ma è possibile che ci metta così tanto tempo in Italia dopo che l'ONU l'ha varata 9 anni fa, bisognava cioè, ancora adesso, come mai in un paese, io capisco le visioni economiche e finanziarie diverse, punti di vista differenti dall'orientamento dei valori, dai partiti eccetera, ma sulla corruzione Se noi diciamo la parola corruzione è ovvio che non ci può essere che una convergenza unanime all'interno di una cornice che dice debelliamo la corruzione e affrontiamola nella maniera più radicale possibile. Quando all'interno poi della parola corruzione si va a guardare il tipo di novella, il tipo di norme che si intende fare, allora magari cominciano dei distinguo. Allora, posto che siamo tutti d'accordo che la corruzione non solo è un elemento che non fa attrarre investimenti, ma anzi li disincentiva. Bisogna poi capire all'interno di questa cornice come prevedere le punizioni o come prevedere i reati intorno al reato di corruzione. Finisco col dire che peraltro sulla corruzione, su quello che si muove intorno alla corruzione, sono fermi decine di miliardi di euro di investimenti. Punto. Da parte di importanti aziende straniere. Ricordato ieri Monti, sì. Esatto, che non trovano in questo, ma al di là della parola corruzione, perché uno per la corruzione intende soltanto il funzionario pubblico che si fa corrompere per concedere o meno. Quindi la concussione. Ma in realtà è altro la corruzione, cioè la corruzione è l'impossibilità di investire in questo paese, è determinata dal fatto che non c'è alcuna certezza da parte di chi viene dall'estero di vedere rispettati i tempi della burocrazia, che spesso si scontrano con delle corruttele di tipo locali. Allora, o noi vediamo tutto il disegno in maniera globale e allora ci estraniamo dal, tanto per dirla chiaramente, processo Ruby o il processo Penati e quindi guardiamo davvero all'interesse di questo paese, o viceversa noi faremo dei singhiozzi, cioè continueremo a fare dei singulti per cui faremo delle norme che non sono niente affatto risolutive, ma che continuano a essere delle pecette che non riescono in nessun modo a far ripartire questo paese, perché o mi si danno delle certezze sul fatto che se io investo 1 miliardo di euro non c'è l'ente locale, l'ATO, il consorzio, l'associazione locale che presenta un ricorso al TAR e soltanto per quello mi blocca l'investimento, oppure io non mi investirò mai più 1 euro in Italia. Va bene. Passa tutto da lì. Giorgio, poi dopo voglio brevissimamente, ma adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma raccontare molto brevemente due storie di mala giustizia, di malissima giustizia. Poi c'è Cesare da Verona, se non sbaglio, le altre ascoltatrici e ascoltatori, al numero verde 800 24 00 24 per le vostre libere opinioni sui fatti della settimana. Non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano sempre con voi per commentare insieme i fatti della settimana e opinionista estemporaneo di oggi è il direttore del settimanale Panorama Giorgio Mulè. Ci sono le vostre telefonate all'800 24 0024. Dicevamo Cesare da Verona. Cesare. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a te. Senta, io volevo solo precisare una cosa. Quando parliamo di grillini o di gente che si è stufata di andare a votare, in fin dei conti di cosa stiamo parlando? Perché se questa situazione siamo arrivati è solo perché l'abbiamo voluta noi cittadini. Io le spiego, io sono originario del Salento, sì. Sono stato lì fino a 20 anni, frequentavo i partiti, la democrazia, la vecchia democrazia, i socialisti, quelle robe lì. E è sempre stato un discorso di favoritismo, 10 voti a me, io ti sistemo il figlio e tutto questo discorso qua. Sono venuto al nord, sono nella provincia di Verona, sul lago di Garda, e ancora peggio, tuttora adesso. Quindi di cosa stiamo parlando? Dei grillini o la gente che si stufa? Cioè, dice, una questione di mentalità, di cultura, che è difficile da scalfire, sì, da cambiare. Ma se fossero veramente, è quello il discorso, se fossero veramente stufi di andare a votare, non andrebbero effettivamente, o prenderebbero quelli che si mettono in lista e gli direbbero chiaramente: cari signori, noi il voto ve lo diamo nel momento in cui pensate alla società, non al proprio interesse personale di qualcuno. Sei stato chiarissimo, Cesare. Ti ringrazio, Cesare, c'è stato uno spaccato. Prego, niente, dalla Puglia al nord-est. Francesco da Milano, no, ci sono dei problemi, lo richiamiamo all'800 24 00 24. Allora, io prima di tornare a parlare con Giorgio Mulè volevo leggere velocissimamente cosa pensano le ascoltatrici e gli ascoltatori facebookiani sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni a proposito della legge anticorruzione. Massimiliano dice: perché mezzo Parlamento andrebbe dentro il giorno dopo, dice, non si fa questa legge. Poi Danilo, Alberto Sordi nel suo film ha dipinto lo stereotipo dell'italiano medio e insomma dice un po' che ha la mentalità che ci illustrava prima Cesare. Giuliano, è come voler promulgare una legge anticannibalismo in un villaggio di cannibali. Fabio, perché sono quasi tutti marioli. Claudio dice: perché chi è deputato a farla non ha dignità. Poi Alino, prima prova a chiederti come sono gli italiani. Rosanna, il guardiano di una mandria lascia uscire nottetempo, qui fa insomma tutta una novella che è un po' metafora di quello che succede, e tutti gli altri messaggi. Ma volevo dire, fra le varie notizie, ecco cosa mi ero dimenticata, visto che ero rimasta estasiata da come Giorgio Mulè aveva cantato bene, sapete che è passato alla Camera, c'è stato un primo sì, poi deve andare anche il Senato, l'intenzione di insegnare l'inno di Mameli, quindi l'inno italiano, nelle scuole di tutti i gradi. Una cosa che ti piace, Giorgio Mulè? Assolutamente sì, perché come dire, il nostro essere italiani passa innanzitutto dalla consapevolezza della nostra storia. La nostra storia è fatta anche di segni, la bandiera è un segno, l'inno è un segno, la storia, il risorgimento è un altro segno, e quindi più si inculcano fin da piccoli, meglio è. C'è un piccolo lì, mi pare, appena detto piccolo, sento la voce di un piccolo. Sì, no, è mia figlia, è mia figlia. Di un amico. Che dice lei? Le piace l'inno italiano? Lei lo canta da quando aveva 7 anni, quindi... Veramente? Ma a scuola o a casa tua? Sia a scuola che a casa. Ah, capito. Salutacela, Francesco, Francesco da Milano, abbiamo riacchiappato. Francesco? Sì, pronto, buongiorno. Eccoti qua, buongiorno. Dunque, volevo riagganciarmi a quello che aveva detto prima Rosalba, precisando Vitalba, che comunque sì. Noi in Italia siamo sempre molto bravi a parlare di cose completamente irrilevanti e non a parlare di cose importanti, però in ogni caso anche con le precisazioni fatte dal vostro ospite per quanto riguarda le metodologie per le interviste, Giorgio Mulè, sì. Esatto, se si chiede a una persona con l'estrazione culturale di Cassano, la provenienza, il background di Cassano, un argomento, un parere su un argomento di qualsiasi genere che non sia sportivo, cioè non sia la sua materia primaria, è ovvio che la risposta non fa altro che confermare il suo background, la sua origine. La stessa domanda l'avessimo fatta a qualsiasi altra persona dei quartieri spagnoli di Napoli o dello Zen di Palermo, avremmo avuto quel tipo di risposta, cioè la risposta che nasce da un certo tipo di background. Niente di strano, Cassano non è nient'altro che l'espressione di una parte. Anche se sai, perdonami Francesco, ma andare a prendere una persona dei quartieri spagnoli, del quartiere Zen a Palermo, che non lo diamo per scontato, ma tu dici per il background, per il tipo di contesto in cui sono cresciuti, darebbero questi. Però Cassano rappresenta qualcos'altro che una persona qualunque in un quartiere troppo marginale, no? Cioè noi abbiamo questa abitudine sbagliatissima di attribuire onniscienza o comunque competenza o comunque la capacità di esprimere un parere qualificato a una persona solo perché è nota per un settore, è quindi, nota scusa, per un sì, tipo sì, di capacità. Ma Francesco, quindi tu stai dicendo che è meglio non fare certe domande ai calciatori o che è giusto quello che ha detto Cassano perché quello è il suo personaggio, è la sua personalità, la sua formazione? Non esiste il giusto o lo sbagliato, quella è la sua idea. È un'idea che può essere criticata dalla massa o criticata da una parte. Tu sei d'accordo? Ma tu sei d'accordo? Non sono d'accordo con quello che ha detto, ma questo non è rilevante. Cioè, il problema è che si parli di un'opinione espressa da una persona che ha una qualifica in un settore per un'opinione espressa in un settore in cui non ha alcuna qualifica, non ha alcuna voce in capitolo, se non la sua mera opinione. La sua mera opinione è ovvio che può essere criticabile dalla massa, può essere criticabile solo da una parte, a seconda di quanto può essere strana, ma è la sua opinione. È assurdo che si debba ascoltare la sua opinione in un argomento del quale non ha assolutamente voce in capitolo, non ha legittimazione di nessun genere, e questo avviene in Italia per tantissime cose. Francesco, ti ringrazio, ho capito cosa vuoi dire, però insomma l'argomento del momento, si sta parlando di calcio nazionale. Francesco, ti ringrazio. Giorgio, invece volevo chiederti, restando su questo tema, dicevo all'inizio di Bersani che ha scritto questa lettera al Gay Pride, no, di sabato scorso, è venuto fuori Beppe Fioroni, parte cattolica, un po' più diciamo oltranzista del PD, che ha detto se Bersani si candida alle primarie e nel suo programma c'è questa cosa, allora mi candido anch'io, perché su questa cosa delle coppie gay non ne voglio sapere. Ti sembra una buona scelta? Io avrei detto, non mi convince sulla questione delle politiche economiche, vediamo cosa di meglio si può fare per salvare questo paese. Che dici? È un buon motivo? Che bisogna avere finalmente totalmente rispetto per chi ha tendenze sessuali diciamo diverse da quelle che sono cognite nella Bibbia o nella tradizione cattolica italiana. Cioè bisogna cominciare ad avere un sacrosanto rispetto per chi vuole non essere diverso, ma avere una sessualità, una vita diversa. Per cui a me comincia davvero a dare fastidio che si comincia a parlare di gay. Si parla di persone che vivono la loro vita come gli pare a loro. E tagliarli fuori dalla società, comprimerli in un angolo che li fa apparire soltanto diversi, è quanto di più non dico ignorante, ma di più, come dire, antistorico si possa fare. Senti, ma per te, Giorgio, ti voglio chiedere questa cosa. Per ora l'Italia non ce l'ha fatta, adesso vedremo come proseguono le partite, perché ci sono forse dei gay nella squadra o perché c'è Cassano? No, Cassano è un povero scemo, nel senso che Cassano, come diceva giustamente Francesco, non è che il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Pari Opportunità. Cassano è Antonio Cassano da Bari Vecchia, quindi interpreta soltanto quello che gli pare di dire a lui. Noi gli attribuiamo una volontà che sia così trasversale o universale, ma Cassano è Cassano, ma cioè, posso dirlo fuori da dentro? Ma chi se ne frega di quello che dice Cassano? Giustamente, siamo d'accordo, continui a tirare calcio al pallone. Ecco, magari. Senti, invece prima, adesso c'è una pausa per gli aggiornamenti, vorrei velocissimamente dire due cose perché mi stanno a cuore e non so se avete sentito di questa sentenza sulla tragedia della famiglia Quinci in Sicilia, questo ragazzo di 22 anni mi sembra che aveva sterminato una famiglia andando a 120 chilometri a Campobello di Mazara in Sicilia, un piccolissimo paese, con la sua BMW andava a 120 chilometri nelle stradine, aveva preso in pieno questa 600 con a bordo una famiglia, mamma, padre e due figli, era morta la madre con i due figli adolescenti, anzi il bambino aveva 10 anni, il padre era sopravvissuto, poi per il dolore si è suicidato dopo 6 mesi. Ebbene, la sentenza sono 2 anni, ma in realtà con la condizionale non si farà neanche un giorno di carcere, questo per dire come vanno molte cose in Italia. E poi anche quest'altro, di questa ragazza, vi ricordate che era stata vittima, se non sbaglio l'anno scorso, di uno stupro efferato, tutti gli stupri lo sono, ma questo in modo particolare all'Aquila, da un militare, ed era stata abbandonata in mezzo alla neve, ha rischiato di morire anche per assideramento, perché era anche svenuta naturalmente per la violenza. L'11 e 12 febbraio scorsi in realtà sono stati, ebbene è stato messo questo 21enne militare agli arresti domiciliari, dicono che il pericolo sussiste ancora, che potrebbe anche reiterare il reato, ma che la custodia cautelare, che invece gli arresti domiciliari, cioè stare a casa, può essere già per il momento un tipo di prevenzione sufficiente. E lei ha detto: questo mi fa temere per me stessa, per la mia vita, forse me ne andrò all'estero. Mi sembra che questa possa essere un modo di dare giustizia alle persone. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccoci di nuovo insieme e stavo guardando che avrei voglia di raccontarvi tantissime altre cose, ma il tempo stringe, abbiamo sempre il numero verde, le ascoltatrici e ascoltatori 800 24 00 24. Vi ricordo che fra le altre cose, io vi dico sempre all'inizio perché non ci sono più le mezze stagioni, c'è sempre una notizia che metaforicamente ce lo dice, e vi confermo anche che le cose vanno sempre uguali in Italia, anche questa settimana 3 donne ammazzate e un'altra coltellata, quindi diciamo la media è sempre quella, abbiamo una certa, diciamo, coerenza. E però è il momento di andare a sentire che gli sarà venuto per la mente questa settimana a Don Severino di Potenza. Don Severino! Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera a te. Innanzitutto ti ringrazio dei due fatti che hai citato, cioè dire il ragazzo al volante e la povera ragazza lì sulla neve. Hai fatto bene a citarlo come gli assassini delle ragazze, perché nonostante quello che si dica su Cassano, che non si deve ascoltare, che non ha valore, eccetera, io ti posso confermare che queste cose succedono perché in Italia ci sono molti Cassano che la pensano così e restano impuniti, e tutti gli italiani che la pensano come lui sono ipocriti, falsi e assassini. Questo è il problema, a prescindere da palloni e non palloni. Grazie. Grazie Don Severino, è stato molto molto severo Don Severino, del resto il nome stesso lo dice, anche se è vero che c'è un po' un filo conduttore tra l'avere certi pensieri su quello che non è come te, su quello che non è come vorresti tu, anche se è legittimamente essere in un altro modo, essere donna, essere uomo, essere omosessuale o non esserlo, e questo fatto di avere sempre del disprezzo verso qualcuno è qualcosa che poi piano piano porta anche, diciamo, ai limiti estremi, non nel caso di Cassano, però alimenta questo tipo di cultura macista in genere, e questi poi sono i risultati. C'è, se non sbaglio, Paolo da Milano? Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno Paolo. Buongiorno, no, nulla, io volevo fare un elogio dell'Italia perché ritengo, al contrario, che se noi non siamo ancora falliti, nonostante siamo un paese disastrato, siamo veramente dei fenomeni. Mi riferisco semplicemente alle ultime dichiarazioni di Giarda, che dice che c'è un recupero di 300 miliardi di sprechi, neanche di risparmi, di sprechi. sulla spesa pubblica annuale e noi parliamo del nulla, cioè di 3,5 miliardi di IMU che quotidianamente vengono detti agli italiani quando ci sono esattamente 100 volte di più di soldi da recuperare che sono lì e probabilmente non verranno recuperati per il classico voto di scambio di politici e quant'altro, quindi non se ne andrà da nessuna parte e continueremo a parlare del nulla. Siringhe che dovrebbero costare 10 centesimi costano un euro e così via, insomma. Grazie Paolo, grazie. Adesso abbiamo un altro appuntamento, sapete, verso la fine della trasmissione. Per esempio su questa legge anticorruzione, questo cammino molto difficile, continuamente emendamenti anche ad altre leggi nel loro iter, questi emendamenti giustamente uno, magari un partito, un esponente di un partito cerca di fare un cambiamento, c'ha un'idea diversa, vediamo se può, però è un emendamento continuo. Emendamento che dici, Valeria Della Valle, della Sapienza, eccomi, di Roma, nostra linguista? Sì, buongiorno, allora sì, in un minuto, sì. Emendamento, dico tutto, beh, insomma, no, dobbiamo risalire al latino, quindi ogni volta ricordiamo che la parola di cui parliamo in genere viene dal latino, in questo caso dal verbo latino emendare, che significava e significa tuttora correggere. Emendamento è una parola antica nella lingua italiana, proprio nel significato di correzione di errore, di difetto. Mentre è molto più recente il senso al quale ci riferiamo, cioè in questi giorni, quello di modifica di un testo legislativo sottoposto all'esame dell'Assemblea parlamentare. Tra l'altro con questo significato la parola è arrivata nella lingua italiana solo alla fine del Settecento, come calco del francese e a sua volta la lingua francese è presa dalla lingua inglese. Conclusione, speriamo che attraverso gli emendamenti si riesca a emendare, ma nel senso originario del verbo, cioè migliorare. Grazie Valeria Della Valle, speriamo che migliori anche la linea la prossima volta. 800 24 24, anzi chiedo scusa a Maurizio e le altre ascoltatrici e ascoltatori, non ce la facciamo. Vi ricordo che la trasmissione può essere riascoltata sul sito di radio24.it o sulla pagina Facebook della trasmissione, ma prima voglio chiedere a Giorgio Mulè. Giorgio, c'ho un dubbio, sai che è stato appena nominato il nuovo direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, no? Quello che si occupa anche di terremoti, è questo Massimo Ghilardi, e qual è la sua competenza? È laureato in scienze motorie. È possibile che abbiano pensato, quelli che hanno scelto, che motorie, nel senso che comunque il terremoto muove parecchio persone e cose, quindi lui laureato in ginnastica, scienze motorie si chiama adesso, possa essere competente, diciamo, in questa situazione? C'è un enorme problema in Italia che è quello del merito della competenza. La nomina dell'Istituto Nazionale di Geofisica con la vulcanologia, insomma, è sovrapponibile forse anche la nomina del presidente della RAI, perché qualcuno mi dovrà convincere che una persona che ha vissuto, fatto una tesi di laurea su Keynes e ha vissuto in Banca d'Italia per 30 anni, ne sappia qualcosa di RAI, di sistema radiotelevisivo e soprattutto di prospettive di dove può andare la Monti televisione. Ha detto una questione di competenze gestionali. Ma non c'è. Adesso non vorrei usare vocaboli che a quest'ora sono in faccia, no, protetta, dire, però no, ma mi rendo conto, per carità, però è una cavolata, volevi dire, è una gran cavolata. Senti, quindi siamo sicuri che siamo in mani sicuri con le scienze motorie? Siamo sicuri che siamo in mani insicure, siamo in mani insicure, siamo sicuri di essere in mani insicure. E chiudiamo quindi con ottimismo. Grazie Giorgio Mulè, non so se vuoi ricantarci l'Inno d'Italia, non so se la tua bambina. Quando volete, con grande piacere. Allora, presto, grazie Giorgio Mulè, salutaci la tua bimba, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.